come farai quest'anno con la siccità? Questa è una bella domanda perché veramente l'acqua bisogna utilizzarla molto accuratamente. Speriamo piova e io ho una piccola vasca di contenimento che mi sono fatto per prendere l'acqua piovana e con quella riesco un pochino a dar da bere all'orto. Però quando non piove, perciò sei senza acqua. Ecco, una cosa che volevo fare, io non metto, come dicevo prima, non do veleni, non do concimi chimici. Se guardate là dove c'è quel contenitore verde, è un compost per fare il compost dalle verdure che si avanzano vecchie, dall'erba tagliata del prato, e ogni 2 o 3 anni si forma il compost, che vi faccio vedere com'è, a Andiamo a vedere la terra. campana del compostaggio. Qua è la terra che io produco. Molto bella nera. Questa qua è terra L'hai fatta tu? viene fatta, la fanno i lombrichi. La terra più ha lombrichi, più è buona. Ed è naturale, non c'è dentro veleno, non c'è dentro niente. Io uso solo questo per metterne l'orto, non uso mai concimi. A te cosa piace di più? I pomodori, l'insalata? Pomodori Pomodori insalata. e Allora, insalata. quando quest'estate passi, vieni a trovarmi. Anche qui. Ecco Sì. dove ti ho già visto. Allora, vieni qua, ti do i pomodori, che ne ho Vieni a mangiare un sempre. pomodoro. Una cosa bellissima è arrivare anche a mezzogiorno, la sera, venire nell'orto, raccogliere l'insalata, le carote. Quello che c'è di quella sta le zucchine, i miei nipotini piacciono tantissimo le zucchine, e farle al momento hanno un sapore veramente diverso da quello che trovi in negozio. Ultime domande. Ha intenzione di insegnare a piantare ortaggi anche ai tuoi nipoti? Io glielo faccio vedere, perché bisogna imparare di tutto nel corso della vita. Poi se gli piacerà, lo faranno penso da soli come ho cominciato io. Mio papà non mi ha obbligato, me l'ha fatto vedere, poi ti rimane e se provi qualcosa succede.